Allora parla il professor Giovanni da Paco di Torino, che tutti conoscete, il famoso medievista o medievalista. Io ancora non so se in Italia si dice, bisogna dire medievista o medievalista. Medievista io preferisco. Lei preferisce però medievista. Ci sono i colleghi che ci sono, appunto, c'è appunto libertà. È un po' come Vandruska o Vandruska, tutte e due è possibile. ecco allora. Allora, il professor Tabacco, tutti lo conosciamo come famoso medievista di Torino, e che è stato anche molto legato a Sestan, e parlerà appunto sul Sestan medievista. Sì, giusto. Allora, anch'io preferisco, ma non lo sapevo, ma non ero mai sicuro. Prego, professor Sestan, di cominciare la sua relazione. Grazie. Ernesto Sestan, come studioso, nacque medievista e rimase prevalentemente tale nonostante l'ampia area dei suoi ulteriori interessi e contributi. Lo dimostra anche l'ampiezza di una scelta dei suoi scritti da lui stesso curata e pubblicata nel 66 con il titolo appunto di Italia medievale, dove si coglie la sua derivazione dal vivo delle interpretazioni politico-istituzionali e politico-sociali proposte da Gaetano Salvemini e da Gioacchino Volpe sull'Italia delle città comunali e sulla Toscana soprattutto. Di Salvemini fu discepolo e serbò il culto per tutta la propria vita. Discepolo sì, ma quando il maestro da tempo ormai si era allontanato sia dallo specifico materialismo storico e deterministico di Achille Loria, che aveva ispirato Magnati e Popolani, come recentemente si è dimostrato, sia più in generale dal sociologismo scientista. E all'apertura del Volpe medievista verso una scuola, verso una storia globale imperniata sulle interazioni fra le strutture del potere e della società, Sestan direttamente si ispirò fin dalla sua prima pubblicazione, Le ricerche intorno ai primi podestà toscani del 24. Non economista e non giurista, così come non economisti né giuristi erano stati Salvemini e Volpe, conferì tuttavia egli pure, come i suoi maestri, il massimo peso alle situazioni economiche nell'interpretare le stratificazioni sociali delle città toscane, e grande attenzione prestò alle forme giuridiche dell'analisi del potere politico. Ciò significa che l'interesse sia per gli sviluppi della produzione e degli scambi, sia per le forme assunte ufficialmente dal dominio, erano strettamente subordinati in Salvemini, Volpe e Sestan al problema politico, all'accertamento di come funzionasse la convivenza civile nell'ambito di una disciplina urbana unitaria, città per città. Era l'antico problema della polis, proiettato al centro del Medioevo toscano, e il giovane Sestan vi si impegnò in quel suo primo studio con tutta la diligenza e amorosa ricerca propria del neofito, dell'iniziato. Diligenza e amore sono parole di Giambattista Picotti in una recensione molto puntuale di quello studio. Sestan dimostrò anzi, come accade ai giovani storici delle istituzioni, anche se non tecnicamente giuristi, un certo gusto per le ipotesi ingegnose sui rapporti formali fra vecchi e nuovi istituti. Suppose, dopo una meticolosa indagine terminologica, che i primi podestà toscani rappresentassero, oltre che il comune, il vescovo, e fossero stati appunto creati, fra l'altro, per meglio legittimare, con l'elezione di un magistrato, tra virgolette, feudale, l'autorità del gruppo dirigente cittadino di fronte al potere pubblico culminante nell'impero. Picotti segnalò l'assenza di qualsiasi fondamento documentario per questa ipotesi, ma apprezzò che non fosse stata proposta come spiegazione esclusiva, lasciando anzi spazio alla ricerca di cause intrinseche alla vita interna del comune, interpretabili come insufficienze costituzionali, una certa, scrisse Picotti, senilità precoce del comune. Questa idea di una sensibilità precoce si trova a sua volta apparentata con l'affermazione di Giovanni De Vergottini anni dopo, d'accordo col Picotti, disse espressamente, sul ricorrere di magistrature del primo comune divergenti dalla normale prassi e da considerarsi sintomo dell'insufficienza del governo consolare di fronte a certi problemi di maggiore gravità per la vita stessa del comune. E qui De Vergottini, passando alla considerazione in genere dei podestà di provenienza non forestiera, lasciò aperto il problema dei rapporti fra questo podestariato cittadino e la tendenza che porterà sostanzialmente verso le origini delle signorie. Non è chi non veda come attraverso il dialogo fra Sestan, Picotti e De Vergottini un nuovo avvio era dato alla trattazione di quel problema storico non esaurito a cui Sestan intitolò la lezione famosa tenuta nell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo nel 61 sulle origini delle signorie cittadine. La lezione, che non vi è credo studioso delle istituzioni comunali italiane del 200 che non abbia avuto occasione di citare dagli anni 60 in poi. Ebbene, vi è in essa un'affermazione esplicita, non propriamente sui primissimi podestà, ma comunque sui podestà indigeni, espressione dell'aristocrazia locale, che si presentano in quasi tutte le città cavaliere fra il XII e il XIII secolo. Qui veramente, affermò, si possono riscontrare i primi incerti accenni verso la signoria. Il problema lasciato aperto da De Vergottini veniva dunque da Sestan risolto in senso affermativo. Ma subito il discorso di Sestan si allargava dalla considerazione degli istituti, per dir così, monarchici già esistenti nel comune, il podestà, il capitano del popolo, eccetera, all'esame analitico delle persistenti tendenze cosiddette feudali, e con ciò intendeva la presenza delle dinastie signorili nel tessuto rurale, interpretate anch'esse come tendenza verso soluzioni monarchiche, una tendenza questa tanto più concretamente efficace in quanto le signorie cittadine nacquero col concorso diretto o indiretto anche di forze estranee alla città. Ma il gioco delle tendenze insite negli istituti del mondo cittadino e del mondo rurale, dal podestariato alle dinastie del contado, si associava ancor sempre in Sestan, con nettezza anzi maggiore che nello studio giovanile, all'analisi degli interessi più vivi nella realtà politico-sociale dell'ambiente cittadino. Non più si trattava, come nelle analisi sui primi podestà, di interessi occasionali, in situazioni eccezionali, bensì di una esperienza fondamentale già sottolineata fin dagli ultimi anni venti da Nicola Ottokar. La disgregazione, talora precoce, altre volte più tarda, della oligarchia consolare, quando essa mostrò di non sapersi integrare con i nuovi elementi che emergevano per ricchezza e potenza. Un'esperienza che a sua volta si andò complicando con un fatto non meno fondamentale e di ampiezza maggiore, il formarsi di costellazioni pluricomunali con l'ausilio proprio di quelle parti politiche in cui la faziosità partigiana andava disgregando le oligarchie consolari. La crisi comunale diveniva per tali vie un processo verso lo stato signorile regionale. Si osservi come nell'incontro il problema delle origini signorili, Sestan abbandonasse quel certo zelo che in giovane età aveva dimostrato nel proporre ingegnosi raccordi fra istituti di età diverse, e con ciò facesse ormai fruttare appieno la lezione del volpe medievista, confortata nel frattempo dall'insegnamento fiorentino di Ottokar, e la facesse vigorosamente propria, spostando nell'applicazione dai problemi delle origini comunali e del podestariato al problema delle origini dello Stato regionale. Fece anzi di più. Nell'introdurre la propria lezione romana, distinse nettamente fra l'accertamento erudito dei dati di fatto necessario quando si tratti di dati importanti, disse, è un vero problema storico di vasta portata e interpretazione, escludendo a priori, perentoriamente, che le soluzioni provvisoriamente soddisfacenti di un tale problema siano per essere accolte come soddisfacenti e sottoscritte in una stagione storiografica successiva e profondamente mutata. Solo a questo patto, disse, la storiografia accompagna come espressione non secondaria la vita morale e culturale delle nazioni. Era l'insegnamento crociano della contemporaneità della storia, utilizzata per giustificare il ritorno a un vecchio problema. Un problema che Sestan voleva sottrarre al dominio esclusivo dei giuristi, ai quali giuristi riconobbe l'apporto prezioso nell'analisi delle distorsioni subite dagli istituti comunali nel processo storico verso la signoria cittadina, negando però che ciò fosse avvenuto per una sorta di dinamica interna connaturata con gli istituti stessi. La trasformazione avvenne, disse Sestan, per virtù di forze estranee ad essi istituti, forze e volontà storiche che plasmarono gli istituti come docile argilla, ad libitum, secondo le nuove esigenze. Notate questo ad libitum, riecheggiante una recensione che Volpe aveva pubblicata sulla Critica di Croce nel 904, dove a proposito del podestariato si combatte l'isolamento giuridico di certe trattazioni degli storici del diritto e polemicamente si afferma che via via il comune crea originalmente, espressione sottolineata da Volpe con il corsivo tipografico, le forme giuridiche del proprio organamento. Volpe aveva sì ammesso che in queste forme giuridiche si possa trovare il riflesso di idee e di istituti precedenti, ma in quanto i giuristi di età comunale, dopo la spontanea creazione, procedevano a formulazioni suggerite da istituzioni anteriori. Aveva insomma attribuito uno spontaneismo assoluto al, scrisse, complesso delle forze sociali, nelle azioni e reazioni economiche, politiche, psicologiche, allo sforzo faticoso di chi crea provando e riprovando. Esattamente come più tardi Sestan, nel 61, affermò che le legittimazioni giuridiche della signoria cittadina avvenivano post eventum, non ante eventum. Non entravano dunque nel processo della sua creazione, non contribuivano a spiegarne le origini, ma puramente ne conseguivano a creazione avvenuta. E quando, pochi anni dopo, in un congresso di storia del diritto svolto a Firenze nel 64, Sestan fu chiamato a parlare dei rapporti fra medievistica e storia, egli cercò di essere imparziale, giudicando assurdo augurare e postulare una capitolazione degli storici ai giuristi o dei giuristi agli storici, ma nuovamente respinse l'idea di una dinamica degli istituti giuridici come entità viventi una vita propria, vi oppose la mentalità e la visione di chi è attento al concreto operare storico e dichiarò perentoriamente che non il fatto politico è determinato o al più solo limitatamente condizionato dall'istituto giuridico, ma al contrario, l'istituto giuridico è l'espressione di una situazione politica nel più ampio senso della parola sul piano del diritto. È interessante constatare che oggi ancora questa mentalità e visione, per usare i termini di Sestan, è ben rappresentata in certa operosa medievistica italiana, nonostante, sotto il rispetto teorico, la sua palese e sentenziosa unilateralità. Ma in Volpe e in Sestan, di là dalle loro sentenze polemiche, vi era semplicemente il fastidio della unilateralità opposta, di una storia del diritto tendenzialmente chiusa nella persuasione della propria autosufficienza scientifica, nella contemplazione dei propri dogmi, dogmi nel senso giuridico del termine, lo stesso fastidio che in Germania non solo uno storico come Theodor Meyer, così risoluto sempre nel ricondurre lo sviluppo delle istituzioni alle volontà politiche, ma anche un insigne storico del diritto come Heinrich Mitteis, dimostrò nel corso di più decenni, con richiami altrettanto risoluti, so laden wir die Rechtsgeschichte vor das Forum des Lebens, dinanzi al tribunale della vita, anche se Stan invitò la storia delle istituzioni. Anzi, quando l'occasione si presentò, nel congresso italo-sovietico di Roma del 69, volentieri superò i limiti tradizionali degli studi italiani sull'ordinamento cittadino, dal comune alla signoria ed oltre. Al centro della sua esposizione sulla città italiana del tardo medievo pose la composizione economico-sociale. Nel centro-nord l'aristocrazia rurale quasi tutta inurbata, i possessi di campagna per lo più ricondotti alla loro base economica, lo slancio imprenditoriale della grossa borghesia ancora ben vivo fino a metà 400. A questo quadro, posto a confronto con il sud, fece precedere nozioni di topografia urbana, di demografia, di etnolinguistica e fece seguire solo in conclusione le informazioni sugli ordinamenti politico-amministrativi, con notazioni sullo sviluppo delle nuove capitali e sulla persistente egemonia, anche e soprattutto culturale, della città sulla campagna. Una sintesi occasionale, senza dubbio, fondata su buone e recenti letture, ma in armonia con certa sua aspirazione ad allargare l'orizzonte culturale dei propri studi sulle città, studi garbati ed acuti su Siena, su Firenze, su Spoleto, posta a confronto fra loro o fra le varie fasi del loro sviluppo. Erano studi dove il bisogno di rievocare la vita di un tempo lo condusse anche a considerazioni di psicologia collettiva, calate in una concretezza visibile. Come per Firenze, quelle vie anguste di una città non grande, dove tutti vivevano quasi a gomito, dove la vita di ognuno, dalla culla alla tomba, quasi non aveva segreti per tutti gli altri. Un ambiente per certi aspetti provinciale, disse. Considerazioni, in parte forse un po' a intuizione, ma plausibili e finalizzate a un'esigenza di spiegazione di comportamenti che incidevano sul funzionamento della società, come ad esempio nel caso citato, per spiegare l'assenza di qualche cosa di anche lontanamente simile a partiti di opinione. Che nel chiarire le peculiarità di singole città comunali, il problema di Sestan fosse largamente civile e politico, analogo a quello affrontato dagli antichisti per le singole poleis di tanti secoli prima, emerge in modo esplicito nella conclusione che gli diede alla relazione fiorentina del 65 su Dante e Firenze, dove, richiamando parole del suo venerato maestro Gaetano Salvemini, disse, pose a fronte Atene e Firenze con le loro simili esplosioni di genialità. Ma ad ambientare le nuove poleis, e in particolare appunto Firenze, entro il tessuto storico che fu loro proprio e le configurò in forma tanto diversa dal mondo delle poleis antiche, valsero per Sestan alcuni colpi di sonda su potenza e disgregazione della casata dei Guidi. Sulla loro simultanea presenza, a Cavaliere dell'Appennino e fino a Montevarchi e in Empoli, in Pistoia e in Firenze. Era quella simbiosi fra l'aristocrazia militare con i suoi sviluppi cavallereschi e l'operoso mondo dei borghi e delle città a cui l'Italia giuridicamente imperiale o papale dovette la sua impronta civile, fino al minuscolo Principato di Carpi, alla compatta signoria dei Gonzaga, al tormentato e disperso dominio degli Estensi, che Sestan, in anni recenti, si compiacque a volta di rievocare nella splendida cornice del mecenatismo rinascimentale, con attenzione sempre ai raccordi fra corti principesche, nobiltà variegata, consenso popolare. Ecco i temi importanti, come gli diceva, i grandi processi e momenti della vicenda storica che se sta amava studiare, ora discutendo i problemi generali, ora esemplificando in discorsi occasionali permeati di cultura ma limpidi e leggibili con qualche tono di amabile conversazione. Discussioni e discorsi si nutrivano di erudizione altrui e di un gusto suo proprio di filologo attento. Avvenne anzi a lui stesso di atteggiarsi a erudito commentatore di un piccolo episodio di storia locale, per suggerimento di qualche documento inedito ritrovato in archivio. Su un sinistro di viaggio occorso a un vescovo volterrano convocato da Federico II imperatore. A dire il vero, molto dovetti immaginare per dare al viaggio e all'incidente una collocazione storica plausibile, ma immaginò in modo aderente a una situazione politica e a consuetudini di vita ben puntualizzate. Ne riuscì un raccontino esposto con garbo e prudenza, ricco di connessioni con problemi coinvolgenti città comunali vivaci, ambizioni signorili, costosi corteggi. Un quadretto piuttosto eccezionale per le sue dimensioni ridotte entro la produzione storiografica di Sestan, ma significativo del modo in cui egli intendeva una erudizione locale dotata di dignità. Questo dell'erudizione, della sua legittimità e del suo valore, fu sempre un problema inquietante per Sestan. Talvolta egli sembra ricondurre l'erudizione legittima al lavoro compiuto con rigore filologico sulle fonti per risolvere le aggrovigliate questioni e per trarne i dati sicuri, premessa necessaria ad ogni opera storica. Così gli avvenne di giudicare pura erudizione tutta l'opera di Giovanni Monticolo, condotta, così giudica egli stesso, con estrema perizia e finezza filologica. E dire che immediatamente prima gli era avvenuto di scrivere che quando dormitat Homerus lo storico decade a erudito, quasi volesse disporre la distinzione fra erudizione e storia in una gerarchia di valori. La diversità dei piani fra l'approntamento filologico degli strumenti di indagine e il conseguimento storiografico delle finalità culturali gli si complica dunque in mente con un giudizio di valore sui singoli momenti della riflessione sul passato, né solo come momenti nel significato appunto di percorsi successivi dall'esegesi delle fonti alla ricostruzione storica, ma anche come momenti di questa ricostruzione dalle dimensioni modeste della storia locale fino ai problemi generali sorretti da raffronti e comparazioni. Salvo che, per quest'ultima distinzione, basata sulle dimensioni dell'oggetto studiato, Sestan stesso reagisce alla tentazione dei giudizi di valore. Certamente, scrive in un luogo, anche dalle memorie di oscuri villaggi si può risalire, quando se ne abbia la mente e l'animo, alle altezze della storia vera, quando cioè si sappia trarne motivi su cui modulare una storia universalmente umana. Ciò che insomma introduce nella sfera della cultura storica è la connessione di ogni singola ricerca sul passato su un oggetto spazialmente e temporalmente limitato o, come sopravvisto, su un aspetto specifico della realtà come quello giuridico, e la complessità globale dell'esperienza vissuta dagli uomini, una connessione che può essere mediata da una pluralità di raffronti e dalla collocazione in contesti più vasti. Il bisogno di ampi orizzonti umani in relazione vitale con situazioni e testimonianze singole accompagnò sempre Sestan. L'impegno dell'analisi documentaria in stretta sintesi con la problematica storica, così come si può constatare fin dal suo primo lavoro sui podestà comunali, si può ritrovare intatta più di 30 anni dopo, quando il suo costante interesse per la città, convergendo con un'attenzione nuova all'Alto Medioevo, lo fece riflettere in un capitolare carolingio emanato per una spedizione contro i saraceni sull'ammonizione dell'imperatore Lotario ai vescovi del Regno Italico affinché abbiano cura di predicare in ecclesis suis et civitativus a coloro che non posseggono beni in beneficio, bensì dispongono di beni in proprietà, mobili e immobili, persuadendoli a contribuire con le proprie sostanze per la costruzione delle mura progettate in Roma dall'imperatore, nel modo stesso che vi contribuiranno quanti sono provvisti di beneficio. Sestan analizzò semanticamente, in modo assai meticoloso, cinque termini che in questo ammonimento imperiale mi parvero significativi in rapporto al problema della città italica alto medievale. Si convinse infatti che i riferimenti erano ai proprietari abitanti le città vescovili e alla predicazione nelle cattedrali, che nel tessuto urbano d'Italia la base economica dei cittadini agiati era ancora assai spesso la libera disponibilità di beni e redditi in proprietà assoluta, che fra tali cittadini l'autorità regia funzionavano ormai come mediatori i vescovi, mentre il potere coercitivo dei re tendeva a restringersi alle clientele vassallatiche. La lettura di una prescrizione molto specifica nella sua finalità e assai limitata nel tempo sollecitò dunque Sestan a una riflessione che si allargava all'intero assetto sociale dell'Italia dei Franchi e al suo inquadramento regio ed episcopale, suggerendo una prospettiva che dal cuore del mondo carolingio si apriva su tutto il destino medievale della città italiana. Nel giudicare gli studi dei medievisti si mostrò quindi severo ogni volta che la duplice esigenza filologica e culturale non fosse compiutamente rispettata. Ne soffrirono in modo particolare, nella sua presentazione della erudizione otto-novecentesca in Italia, le società storiche d'impronta provinciale, soprattutto lo stuolo di dilettanti locali, monsignori e patrizi, avvocati e insegnanti, che i congressi annuali di Ferdinando Gabotto in Piemonte convogliarono. Gabotto, in verità, personalmente, avrebbe meritato forse una maggiore attenzione, perché era uomo ricco di interessi culturali e in quel suo un po' temerario ardore di propaganda per una larga partecipazione alla ricerca archivistica, all'edizione di fonti, alla ricostruzione di fatti del Medioevo località per località, non mancava certo al Gabotto la percezione di una esigenza di nessi fra documenti, piccole storie e grandi problemi della società del potere, dal tema del connubio fra chiese, comuni e aristocrazie a quello delle formazioni statali, come il suo millennio di storie porediese e le sue introduzioni ai cartari e le indagini sulla dinastia Sabauda dimostrano. Ma ben si comprende come la sovrabbondante proliferazione degli scritti del Gabotto, la minutissima narrazione dei fatti, l'audacia delle sue congetture genealogiche e istituzionali, il tutto aggravato dallo scialo spettacolare, sono due parole del Sestan, dei suoi congressi, infastidissero l'aristocratica compostezza di uno studioso come Sestan. Ma la sua severità convince meno quando si insinua, anche nella introduzione del 56, alla versione italiana della Geschichte von Florenz di Davidson. Se non che, proprio in ragione della sorpresa che questo eccesso di severità può in noi destare, viene fatto di riflettere per meglio penetrare nella coscienza storica di Sestan medievista e meglio intendere i condizionamenti che subì. Bisogna risalire al giudizio che aveva dato su Davidson Nicola Ottokar nel 29, qualificandone l'opera come di pura erudizione, un formidabile elenco di fatti frammentari e isolati, nessuna visione organica, nessuna penetrazione intima della realtà, con generalizzazioni superficiali ed esterne, collegamenti casuali più sconclusionati, non senza errori di fatto addirittura enormi. Di enorme In verità c'è piuttosto questo giudizio, non perché nella sterminata opera di Davidson manchino errori e superficialità, ma perché ridurlo a elencatore di fatti significa ignorare la ricchezza delle connessioni da lui proposte. C'è addirittura una pagina dove il vicendevole coinvolgimento tra famiglie cavalleresche e attività commerciali e fraceto di mercanti e manifestazioni militari della loro potenza alla fine del 200 sembra preannunziare in Davidson il tema appunto attorno a cui proprio Ottokar organizzerà la propria ricerca. Ma la caccia agli errori, perfettamente legittima nel processo della conoscenza storica, diventava in Ottokar gusto polemico, e poiché Ottokar rappresentava per sé Stan l'acuto prosecutore delle revisioni proposte da Volpe, sia contro la erudizione positivistica sia contro le unilateralità del materialismo storico, avvenne a sé Stan, di fronte alla miriade di informazioni offerte da Davidson e alla sua inclinazione alle motivazioni economiche, di sentirsi confortato a ribadire l'insegnamento crociano della necessità di un problema intimamente vissuto, di un problema etico-politico, perché la filologia si converta in autentica storia. Si rammaricò dunque espressamente se sta che a Davidson fosse mancata una forte passione o almeno un forte interesse politico e avesse sostituito nella propria opera come elemento unificante una visione topografica della storia di Firenze, topografica, aggiunse con manifesta esuberanza critica, nel senso di una unione materiale di case, di chiese, di mura, di strade, piuttosto che di collettività umana che quelle strade, che quelle case popolò e animò. Non è che se Stan non sentisse i pericoli della teorizzazione crociana. Scrisse, è vero, l'elogio della forte passione politica che si proietti ad investigare e ad illuminare il passato, anche a costo di deformarlo un poco, e oppose questo suo elogio agli zelatori della imparzialità storica. Ma quando era avvenuto proprio a lui, se sta, di affrontare problemi che commuovevano l'animo suo, la esigenza di un giudizio sereno era prevalsa. Aveva enunciato allora il principio che l'indagine non debba servire a nessuna tesi, non prestare argomenti ad alcuna rivendicazione, per giustificata o men giustificata che possa essere. La imparzialità gli era parsa insomma essenziale, poiché il punto di vista strettamente storico deve essere fine a se stesso. E si trattava allora, nel 47, di un problema cocente per uno studioso di ascendenza istriana. Come nei secoli si sia svolta la vita morale, intellettuale, sociale, politica, nella zona di giuntura che anche di attrito fra il mondo latino, il mondo germanico e il mondo slavo. Di questa complessa zona di incontro volle capire le antiche radici etniche e culturali. Non sorprenda che nella premessa agli sviluppi medievali egli abbia affermato subito una verità che definì assiomatica, espressione rara in uno studioso come se sta, incline saggiamente a comporre in giudizi sintetici aspetti della realtà e ragioni argomentative di natura diversa. L'assioma da lui definito fu che la Venezia Giulia, nella misura in cui essa è italiana per le stesse ragioni, per effetto dello stesso sviluppo storico per cui sono italiane le altre regioni d'Italia. Italianità marginale, certo, ma come altrove residuo della romanità, non dunque fenomeno di importazione, se non in quanto quasi ovunque in Italia fu la romanità stessa un fenomeno di importazione. L'assioma rispondeva in qualche modo al sentimento che se Stan provava dell'italianità della sua terra, ma emergeva per forza sua propria come lucidissima constatazione storica, pari alla lucidità delle successive analisi sia sulle infiltrazioni tedesche ad alto livello sociale in età post-carolingia e per tutto il basso medievo, sia sugli insediamenti slavi, metodicamente distinti secondo la loro diversa origine e la diversa natura dell'esperienza slovena e dell'espansione croata. Quanto all'influenza delle ingerenze veneziane, ne venivano fissati i limiti culturali e il grado di ambiguità come protezione e fonte di svigorimento politico. Un'indagine condotta con finezza esemplare, limpida nella individuazione dei complessi elementi e processi prodottisi per tanti secoli nella regione, e quasi direi compiaciuta della propria serenità nel percorrere fuori di ogni pregiudizio le linee di uno sviluppo tormentato fino all'esito amarissimo al cuore di sé stato. Non so quanto si possa recare a conforto del principio crociano, riformulato da Sestan come esigenza che una forte tensione morale e politica ispiri il lavoro autenticamente storico, poiché è vero che in quel caso la commozione diede al suo lavoro un carattere di urgenza morale che lo tenne fedele al suo tema con perfetta coerenza d'indagine. Ma se ne uscì un'opera storica valida, ciò fu perché la passione politica subì la catarsi di una imparzialità che non tollerava alcun margine di deformazione. Questo bisogno di capire in profondità e con ampiezza adeguata il proprio coinvolgimento nelle commozioni delle nazionalità lacerate lo condusse di lì a poco a un'impresa di largo respiro su quell'alto medievo che non aveva fino allora fermato la sua attenzione di storico se non marginalmente. Ciò avvenne in un momento in apparenza poco opportuno. Erano anni ancora prossimi alla fine del conflitto scatenato dall'ipernazionalismo razzista. Era diffusa la convinzione che la immane tragedia avesse immunizzato l'Europa dalla sopravvalutazione delle tradizioni nazionali, e l'interesse degli studiosi era piuttosto rivolto alle tensioni sociali, di problemi economici, agli sviluppi civili dell'umanità. Sestan se ne rese conto e parlò di uggia diffusa per i motivi nazionali, ma non deflesse dal suo intento. Ricercare le radici delle maggiori nazioni dell'Occidente continentale europeo, Francia, Italia, Germania. Procedette con un metodo comparativo a cui già lo preparava l'esperienza ai margini orientali d'Italia di una pluralità di nazioni generate nel corso del Medioevo. E poiché le formazioni politiche indubbiamente incisero sugli sviluppi nazionali, Sestan non esitò a intitolare le sue ricerche allo Stato oltre che alla nazione, pur sapendo che ai medievisti italiani per lo più il termine Stato ormai ripugnava se applicato a secoli lontani dalle definizioni moderne della sovranità statale. Ripugnava quasi fosse indizio di una visione anacronistica del Medioevo. Stato e nazione, dunque, un affronto si direbbe ai moduli correnti di interpretazione. In nessun altro studio Sestan fu così risoluto nello sfidare i modelli allora dominanti in Italia. Lieke Sestan aveva qui un problema di cui sperimentava personalmente la forza e vedeva lucidamente che certe avversioni terminologiche dei nuovi storici non avevano una ragion d'essere logica. Volle perciò preliminarmente discorrere a lungo di quei due concetti fondamentali su cui la sua opera si imperniava, Stato e Nazione, ma in una conversazione aperta, dove sul proposito di convincere sembra prevalere il bisogno di spiegare a se stesso e agli altri quel suo sofferto problema. E si dispose a riflettere con la consueta pazienza su cosmopolitismo romano e particolarismo etnico, su stanziamenti nuovi ed osmosi di civiltà, su accertati o plausibili stati d'animo di ceti diversi, di generazioni diverse, sempre comparando fra loro in modo esplicito ed implicito quei tre grandi ambiti del processo che dall'universalismo e dalle etnie orientava verso le future nazioni europee. Innumerevole le figure assunte con la dovuta prudenza come emblematiche e gli episodi rievocati a testimonianza fino all'avvento di quei carolingi che nel costruire un quadro d'insieme per germanesimo e latinità prepararono in pari tempo nelle divisioni politiche la genesi di distinzioni culturali dal grande destino. Dopo il quinquennio che vide i lineamenti della Venezia Giulia e Stato e Nazione, se sta un medievista, in concomitanza con qualche suo intervento nelle settimane spoletine sull'arco di civiltà a cui il problema delle origini nazionali lo aveva condotto, tornò al suo originario tema cittadino. Vi tornò al Congresso Internazionale di Stoccolma del 60, applicandovi il metodo comparativo che ben rispondeva alla sua formazione ai margini orientali d'Italia e la sua costante attenzione alla storiografia tedesca e all'esperienza che della comparazione aveva fatta in Stato e Nazione. Fu la relazione sulle caratteristiche della città comunale italiana rispetto al movimento comunale europeo, redatta con la consueta impostazione storiografica, sia preliminare sia di confronto assiduo e con accuratezza di distinzioni demografiche e sociali a cui le peculiarità istituzionali vengono connesse. Vi si ritrova tutto il Sestan cresciuto sulla linea che da Volpe aveva condotto a Ottocar e arricchito di dottrina e saggezza che le letture assidue alimentavano. Intanto, questa fedeltà a un grande tema del Medioevo italiano ed europeo si andava componendo sempre più con una libera visitazione di altre età in un bisogno crescente di esprimere nella vita e nelle opere tutta la sua umanità in una visione del mondo priva di illusioni e priva di stanchezze. Ringrazio vivamente l'illustre professore Tabacco e mi scuso che devo ancora, non dimenticato, ma non avevo visto, voglio dare un saluto speciale alla signora Margherita Sestan, che in un primo, lei è sempre così modesta e va sempre nelle ultime, in mezzo alle file, e voglio dare un saluto speciale anche oggi per tutti i nuovi venuti che non c'erano ieri sera, che la signora Sestan è fra noi e si merita un applauso speciale.